Simon me da mannate, chi l'ha scritti? Si è detto il lusso dei giochi no belli. Io va rispondo che sti bei sonetti so d'uno qui de fianco a sti sgabelli. E de gennaio tuttavia li trovate in libreria. Son morti malaccio. E vabbè. Ma tutti vivi dentro a sto corvaccio. Capitolo primo. Presentazione. Salve gente. Mi chiamano il Corvaccio e so il becchino de sto cimitero. Sto sempre qua per tutto l'anno intero. Scopo le foglie e passo con lo straccio a lucidare i marmi delle tombe. Cor partone incrostato della terra che copre gente che mo più non spera, ma dorme e aspetta il suono delle trombe. C'è sta de tutto qua, statue, fornetti e ogni sorta de tumulature. E quando cale il sole sui tetti, in certi giorni il vento, si la scorti, si alza dalla voce alle fessure, ma pare invece che avvociasso i morti. Capelli incorti, sguardo cupo e torvo, parto nezzozzo su un maglione nero, lavoro da becchino al cimitero, mica per niente so chiamato il corvo. Ma in fondo a me mi piace sto lavoro, girà da solo in mezzo agli lumini tra vecchi, donne, uomini, bambini, che pure morti so compagni d'oro. Sporverò foto, scritte, statuette, scavo le buche in terra lunghe e strette, aggiusto vasi, butto fiori vecchi, so fa brillare le tombe come specchi. E poi mi fermo a chiacchierare con loro. E questo è il bello de sto mio lavoro. Ve voglio di un segreto assai speciale che se tramanda su sto camposanto. C'è come una malia, come un incanto, che coglie chissà via lungo il viale. Sarà che pare de sentì qualcosa, come una voce che non si è mai sentita, che parla della morte e della vita, ma non te fa capire se c'è una cosa che infine darà senso a tutto quanto. Però mo basta. V'ho già detto tanto, ma si ve va, nesta giornata scura, de fa ven giro per sto cimitero, tra il bianco delle tombe e il cielo nero, venite appresso a me, senza paura. Cimitero, esterno giorno. Per una signora morta del cortile, ho fatto la comparsa al funerale. Me so accorato ma con certo stile, m'hanno chiamato per abbassare il morale. Ma nella folla disperata m'è scappata una risata, e ho detto oddio, sto a piagne manca il morto fosse io. Capitolo secondo. Li fornetti. De qua ci sono i loculi attaccati con tanti piani, come un palazzetto. Sta tomba qua, che chiamano fornetto, so tanti quadratoni acciafroccati. E i costi, poi, so ben differenziati. E il più purcioso è quello sotto al tetto, che in morte quasi fosse per dispetto, so i piani arti quelli più sfigati. Qua dentro ci si trova tanta gente che si è passata come fosse niente 2 anni oppure 100 nesta vita. Ma stanno a ciancicà parole ancora, pa' ricordà la vita che era allora, ancora mo, ch'ormai se n'è già ita. Larotino. Buongiorno, io son Nello Larotino, un tenitore de lame e de cortelli. Li dai a me e luccichino belli, li so rotai in modo sopraffino. Per lavorà andavo in bicicletta, nel senso che c'avevo un marchingegno che pedalavi e tacche, senza impegno, gira la rota e arroti la lametta. Lo so, n'avrete visti chissà quanti a fa sto benedetto lavorio, ma va sicuro, l'ho inventato io. Ma poi finì che un giorno come tanti, non so com'è, che me sgusciò il cortello, e annò che me spanzai come un vitello. A Gattara. Da ragazzina era una pupetta che devi da vedella che faccetta. Da ragazzetta un fiore fresco fresco, così finì sposata al suor Francesco. Oh, un professore de fama mondiale, ma cor difetto che scopava male. Che ce vuoi fa? ci andavo mai d'accordo con quel rincoglionito mezzo sordo. Ci aveva sempre poi da lamentasse. Hai fatto il letto o no? Hai chiuso il gas? Parlavo bene solo con i gatti e lui diceva proprio come i matti. Passai da scema a essere una gattara. Ma mo riposo karma nella bara. E il professore. Buongiorno a tutti. Io che gli sto accanto so il suor Francesco, ovvero suo marito. E se sapeste quello che ho patito, direste che me devono fa santo. Qua vecchia buzzicona di mia moglie urlava che era roba da scimmatti. Prima che a me dava da magna i gatti de sera in strada con le cianche spoglie. Che devo di? Eh sì, mi vergognavo. Provate a immaginare quel che provavo. Ve pare questa roba da signore? Da moglie d'un distinto professore? Ma in fondo mo, alla fine de ste pene, devo da di che gli ho voluto bene. Er sognatore. Una volta, quando ancora ero ragazzo, stavo annoiato sopra d'un terrazzo. Ma un tratto il cielo si riempì de stelle e me stupì per quanto erano belle. Poi ce l'ho avuta sempre sta passione, e per sfuggì da qualche delusione bastava, quando che era buio pesto, guardammi il cielo e me scordavo il resto. Sarà che a puntar naso all'infinito pare che niente di quel che sta in basso vale poi tanto, che sia un monte o un sasso è solo una pietruzza tra le tante. Magari può pensare d'essere importante, e invece il buio già se l'ha inghiottito. La cometa, ovvero il racconto del sognatore. Stavamo tutti quanti sul terrazzo e tutti quanti col naso per aria. De stelle ne vedevi a centenaria se stavi a naso in su quel palazzo. Ma noi stavamo là per una speciale. Nel cielo era spuntata un'altra stella che con la coda era la più bella e ci pareva d'esse già a Natale. E la cometa andava piano piano e uno pensò: mortacci a osi è strano che una manciata de sassi e de ghiacci fascì sui tetti ricchi e poveracci. E per paura che il buio se l'inghiotte, noi stiamo a naso in su tutta la notte. L'impiegato comunale. Può essere che ve sono inusuale che, perché al comune, pensa tanta gente, c'è solo chi se imbosca e non fa niente. E invece no, c'è sta chi è meno uguale. Pigliate me, impiegato comunale. In 40 anni non sono mai stato assente. Ho sfacchinato puntigliosamente con dedizione quasi maniacale. Tra un timbro, un bollo, lì alla scrivania, la vita mi è scappata tutta via, che io non me ne sono nemmanco accorto. È che si sta in un mondo dei furfanti, dove tu fatichi e l'altri vanno avanti, ci guadagni soltanto a essere morto. L'oste. Da vivo mi chiamavo Salvatore. Facevo l'oste de una tavernetta. Bicchieri, vino, tavoli e spugnetta a servì gente finché a notte more. Sapeste quante storie ci ho sentito dentro a quel bucio de mezzo osteria, piene de vino e de malinconia, de carte, de bestemmie amor tradito. L'imbriachi, con la vita che li fotte, stavano là per far passa la notte, per manna giù du sorsi de vitaccia addorcita de grappa de vinaccia. Si conti a vita quanto sa de bile e miele pure il succo de barile. Tre disoccupati all'osteria, ovvero il racconto dell'oste. Peppino, Gigi e Mario all'osteria stanno sbragati addosso a un tavolino a ciancicà pistacchi e beve vino. Fa passer tempo, a morte manna via. Stanno a parlare di tanti bei ricordi. Vi ricordate, da ragazzini, le sassaiole e poi ruba i lupini? Ma non se campa se non c'ha li sordi. Ma ricorda un passato tanto caro, in bocca gli ce vien sapore amaro, pa' gioventù che ormai è andata via. Ma quando il vino passa il gargarozzo e poi alla panza gli ce viene il bozzo, tutt'un tratto a ritorna l'allegria. A danza dell'imbriaco, ovvero l'altro racconto dell'oste. Bestemmia, rotta, sputa e poi barcolla. Se sbraga sul balcone con uno schianto. Bocca impastata che gli pare colla, lo sguardo perso, non se può di quanto. Te chiede ancora un sorso di quel vino che è miele per la bocca sua che è amara. Vorrebbe ancora sta fino al mattino, finché sto cielo nero non rischiara. Vorrebbe fallo, ma l'età è passata e non gli regge più de fa nottata. Va fuori verso l'aria della notte, verso quel buio che se l'ha d'anghiotte. Fa un varzer con la sua malinconia finché la notte non se lo porta via. Il malato immaginario. Mi madre era sempre preoccupata che mi pigliasse qualche malatia. Così me se incurcò sta gran fobia po' ogni persona che pare ammorbata. Ben presto se mutò nell'ossessione ed è diventato un malato terminale. Sentivo tutti i sintomi del male, ma il medico mi disse: è un'invenzione. È il cervello che nella frenesia se crede da sentina malatia. Non ero stato insomma mai malato, ma tutt'al più un po' suggestionato. Per me fu una sgravata, come un parto, ma per troppo gioì mi vi un infarto. Il muratore. So spizzichino e faccio il muratore. O meglio, devo dire che lo facevo. E dopo, quei due sordi che vedevo, l'annava a beve giù da Salvatore. La vita intanto se n'annava via. Tarsi col buio e vai a dormire de notte, dopo il lavoro con le ossa rotte, a fa la spola tra casa e osteria, per quel che in vita conta, letto e fiasche. Non mi fermavo mai a guardare uno specchio, per ritrovarmi più incazzato e vecchio, e per scoprire da ve, dentro le tasche, li conti, li bolletti e li cazzacci, e in fondo al core solo carcinacci. La staffetta. Son morta a poco più di 18 anni. Son morta ragazzetta, eppure male, senza una tomba vera o un funerale, quelli celebbi dopo un paro d'anni. Stavamo in guerra, non se stava bene, con tanta fame e ancora la paura. Allora ho preso di alla dittatura che ci teneva zitti alle catene. Così, preso il coraggio a quattro mani, fui una staffetta per i partigiani. Ero veloce come una saetta. Ma una mattina poi m'hanno arrestata, m'hanno pigliata e m'hanno fucilata sui muri del forte de Bravetta. Er vecchio credente e chi se contenta gode. Ma che è l'inferno qua che è tutto scuro? Ah no, m'hanno ficcato un della cassa. E mo sta a vede quanto tempo passa prima di indovado de sicuro. Puro nell'ar dell'asso così lenti. E fregna, oh, pensava a tir de schioppo, che qua filava tutto senza un toppo. Ma c'è uno scontarello pei credenti? No, eh? Beh, faccio per di, non si sa mai. Mica pensavo de passasti guai. Io vado in chiesa da che so ragazzo. Pensavo al paradiso under finale, ma puro qua non è che se sta male. E se è l'inferno, beh, meglio de un cazzo. Lo stracciarolo. Lo stracciarolo va controcorrente. Così cantavo per i vicoletti, quando che rovistavo i cassonetti per vedere quel che lassa l'antra gente. In fondo a una cantina puzzolente, o sotto all'architravi dei tetti, ci trovi roba che non te l'aspetti, di cui nessuno sa ricorda niente. Ninnoli, quadri, lampade, feraia, so pezzi di memoria che è svanita assieme a tutta quella cianfrusaia. Ma quando che gli dai una ripulita, tanto ai ricordi che ha sta maramaglia, pare che gli hai ridato un'altra vita. A portiera. Tutta la vita ho fatto la portiera in un bel palazzone artuscolano. C'era gente elegante, corpa strano, che riverivo da mattina a sera. Là dietro al vetro mi passava in mano tutta la posta e io che so curiosa l'aprivo tutta e ne leggevo aiosa prima da ricacciarla sul ripiano. Sapevo degli buffi, delle amanti, di chi fregava fisco e polizia, di chi pigliava gocce e tranquillanti. Tutto passava là in portineria. Lo so perché, lo dico senza vanti, non me so fatta mai li cazzi mia. Lo scaricatore. Io in vita scaricavo le cassette all'arba, ai mercati generali, e fino a che non erano le sette, non potevo come l'omini normali andare a casa a fammena dormita. Ma pensa te la vita com'è strana. Io che quel che volevo dalla vita era poterla viverla lontana da tutte quelle assurde costrizioni che te son poste da sto mondo infame, che per poter campare non fa la fame, te fa sgobbare e te toglie le emozioni. Visto che ancora me ce magno il fritto, mo ve leggo una storia che ci ho scritto. Er pescioletto rosso, ovvero a storia dello scaricatore. Con una palla de vetro tra le mano, ragazzino sta attento ad andare piano per la paura che gli caschi addosso. Dentro c'è l'acqua e un pescioletto rosso. E il pesce schizza, zompa, guizza, nota. Se pensa quasi di sta a fa la trota. Tutto contento di guardarsi attorno e di schizzare e nota per tutto il giorno. Ma passa il tempo. E il pesce ci s'ammusa de sta o girà ogni giorno alla rinfusa. Gli pare un solo dì che non finisce. E al bimbo, che lo vede e lo capisce, un pensiero gli passa pa' la capoccia. Che semo tutti pesci nella boccia. Dal palazzo della portiera. signora mia non sa de mi marito, non ma ritorna manco a tarda notte. Io casco a cerca de indo se ne ito, vedrai che sarà nato per marmotte. Deve essere. Esatto. E invece. E invece al circolo, tra i fiaschi, lo ritrovo in mezzo ai maschi. Sorpresa, no? Dico. Perché gli ho detto, in mezzo a tutto quel consesso, diciamo, ecco. Girano voci del circolo, che siete diventati tutti soci. Batti le mani, muovi la panza, sono tutti uomini di minoranza. Muovi la panza, batti le mani, gli esseri umani sono fatti così. Capitolo terzo. Ed ombre de famiglia. Con tanto de porta e de maniglia, quelle che vedi là, quei fregni corti, so come delle case per i morti, indoce sbatti padre, madre, figlia, nonni, nipoti e poi chi c'entra c'entra. Come per di, la morte te se piglia, ma manco mo te lassa la famiglia. E poi, se qualcheduno ce s'addentra, ce trovo tra le tombe l'artarini e una carovanata de lumini e tanti fiori, ve lo dico in fede, una puzza da non crede si la senti, che vengono a portargli i parenti. Dai, venite che ve faccio vede. Nonno Peppe, entrate su, che fate lì impalati? Ve strigna il culo, forza, entrate pure. Mica vi piglieranno le paure de sta a parlare con i mora ammazzati. Io so è più vecchio qua, son nonno Peppe, e in vita io c'avevo un ristorante dove ci veniva gente assai importante e sull'insegna c'era da Giuseppe. Era un vanto per me, nato pezzente, vedè che quel lavoro de una vita mo era una taverna ben gradita a gran signore e un sacco d'antra gente. Eppure si ho sgobbato come un matto, io so felice assai di quel che ho fatto. Berto, ovvero quasi il figlio prodigo. E io so Berto, figlio de Peppino. Siccome a casa io ci stavo stretto, non ci sapevo sta sotto a quel tetto, scappai de casa che ero ragazzino. Poiché la fame mi stringeva il petto, cercai lavoro come galoppino, ma non alzava il becco de un quattrino, così iniziai a rubare, eh sì, lo ammetto. Ma un giorno triste m'hanno pizzicato, per 6 mesi sono stato carcerato, e tutto quanto mi pareva nero. Ma poi incontrai Faustina che è mia moglie, e quando gli arrivarono le doglie, ritorna a casa a farsi il fio sincero. Faustina. Io so Faustina, moglie de Giberto. Lo incontrai che viveva la giornata. E dopo un po' già m'ero innamorata. Gran fio de una mignotta, questo è certo. Sarvanna la santa donna de su madre, che lo ripigliò in casa quando io ci avevo da sgravammer pupo mio, de cui lei era nonna e l'altro padre. Ma forse è stata l'aria da svampito e quel comportamento suo da matto, che poi ha fatto fa quello che ha fatto, a famme perde per quel disgraito. Perché l'amore è roba da demente, sa guarda tutto e sa non guarda niente. Nonna Rosa. Mi chiamo Rosa e là da mio marito cucinava e serviva a tavolino, e l'acqua, il pane, la pasta e pure il vino, madonna quanti tavoli ho servito. So pure la madre di quel disgraito che un giorno se ne annò de buon mattino, senza lassarne manco un bigliettino. Dio solo sa le pene che ho patito. Ma quando ritornò, non feci infiato, puro si dentro al core a quel cretino, l'avrebbe presa al collo e poi strozzato. Ma in fondo era sempre il fio piccino. Così me lo so stretto e abbraccicato, come se fosse stato un ragazzino. Felice. Felice so de nome e no de fatto. Sor figlio de Peppino e de Rosetta, so stato sempre là alla tavernetta a fammer culo e a daglie come un matto. A lavorà da quando ero ragazzo, finché ne ereditai morto mio padre e me toccò sgobbanzi a mammi madre per mantener fratello rompicazzo. E io un par de coglioni. Rimasi lì a sgobbaffa li sordoni. Per facce che? Le famme ce le voglie? Io che trottavo da mattina a notte? Io che c'avevo sempre l'ossa rotte? Io che per lavorà non presi moglie? Nonna Rosa, nell'altra vita. Al primo piano sta la sora Rosa, non c'ha marito, è stata sempre sola. Mondo lo trovo un uomo che mi sposa, risponde la zitella in una parola. Mi padre dice para via, moglie faccio compagnia. Perché scendendo di un piano e recandosi di fronte alla porta della signora in questione, si trova ad esclamare: c'è la fiumana! Me sa che la signora è na parapaponzi ponzi ponzi parapaponzi ponzi ponzi po. Capitolo quarto. Le lapidi. De qua, ficcate intera la rinfusa, fatte de marmo lucido e gagliardo, ce so le lapidi, do dorme sia il bastardo che il nobile dalla nomea più astrusa. A Roma c'è stan detto che se usa da dip e di a qualcuno che è in fingardo. Sei una lapide, che vuol di buciardo, perché del vero a lapide ci abusa. E lapidi se sa, son menzogniere, per loro è stato onesto tutto il monno, ma poi ali morti che gli frega in fondo. Er farso er vero, so solo chimere, per chi c'è ancora il fiato nella bocca e con la verità ce se balocca. L'ombrellaro. Io so remo, facevo l'ombrellaro, sapevo riparar qualsiasi danno, drizza gli stecchi, mette toppe al panno, ce lo so che mo è un mestiere raro. Ma pur si vivevo da pezzente, pensavo che essere onesti e parla chiaro abbastasse per mettersi a riparo da fato avverso e invidie della gente. E invece un giorno il fato, sverto, me si è portato via pure il budello, casa, li sordi, tutto uno sconcerto. La vita mia divenne uno sfracello, perché si piove merda, poi sta certo, non ti riesce a parà nessun ombrello. Il campagnolo. Io ero un campagnolo, un contadino. Zappalatera era il mio lavoro. Era un po' rozzo, ma un ragazzo d'oro, schietto e sincero proprio come il vino. All'inizio del 1900, per lavorare non c'era già più niente. Così partì, come tant'altra gente, per la città de ferro e de cemento. E giunsi a Roma speranzoso e fiero d'essere arrivato su un mostro de ferro. Ma quel che me lasciò la bocca aperta fu a macchina. Per me era una scoperta. Ma mentre la fissavo un bambolato, non me spostai, così venni acciaccato. Adonna infelice. Vedona dritta, l'omini son fami. Vo dico io che n'ho passate tante. A noi donne cedeveno fassante, che amo passato tanti giorni grami. Se pensano che siamo delle serve, che laveno per loro giorno e notte, e quando c'hanno voglia anche per fotte, poi corna non finì, dillo a che serve. Io ce n'ho avuto uno, porco, Adamo, che mi diceva sempre io te amo, ma lo diceva dopo che de notte m'aveva fatta gonfia a son de botte. Soltanto adesso posso dire è finita, mo che dar monno me ce ne so ita. Er cornuto. Da ragazzino, er primo vero amore, finì con una scottata assai cocente. Piagneva a notte come indeficiente e stava a ripensacce ore e ore. E dopo tante altre delusioni, finì che me sposai, pareva un sogno. Ma poi capì come va il matrimonio. Prima l'amore e poi le incomprensioni. Le donne son mignotte, dammi retta. Non te fa bindolà da una faccetta. Per farla più contenta, cucinavo, pulivo, sporveravo e sparecchiavo. E me lavavo carze, giacche e braghe. E mo me resta un cesto de lumache. Lo sfasciacarozze. Io ero grosso, con due spalle tozze. E con due mano come due palanche, per lavorà nelle giornate stanche, finì che feci lo sfasciacarozze. Ma a me piaceva stacce alla rimessa, che era un giardino fatto de rottami, sozzi de grasso, polvere e liquami, do la giornata è sempre quella stessa. Che devo fa? Non ero un tipo attivo, e della vita quel che preferivo era quando potevo sta sbragato su una sediola oppure sul serciato, per scoprì, tra un pistone in parabrezza, spuntali fiori in mezzo alla monnezza. Er frate. Campai li mesi, l'anni e le giornate della mia gioventù con quattro stracci, in mezzo alle baracche dei poracci. Per questo mi decisi a farmi frate. Volevo dare una mano a chi sta male, essere d'aiuto per chi non c'ha niente e fa qualcosa per tutta sta gente che dalla vita ha avuto solo sale. Ma poi capii che pur non altri frati, demo seguire i precetti comandati prescritti dalla plebe con grallena da un cardinale con la panza piena. E ancora in testa, a rabbia me ce frulla, puro qua sotto ne sta terra brulla. L'ateo. A Dio io non ci ho mai voluto crede. E quell'assurdo gioco della fede che appena nato te sempona stacce, a me pareva modo per fregacce. Vedevo tanta gente brava e onesta alla messa al giorno della festa. Da buon cristiano far proprio dovere e il prossimo fregallo per mestiere. Vedevo anche chi crede per davvero veni inculato dallo stesso clero. Non è che disprezzavo la religione, ma mi faceva schifo sta finzione. Per dirvi come vedo la novella, mo ve racconto in rima una storiella. Il cimitero bianco, ovvero la storella dell'ateo. Pena traversa de via marmorata, passava un pischelletto e alzò lo sguardo, e vide il marmo de una recintata che a rifletteva un sole cardo cardo. De dietro de quei muri scintillanti, c'è stava il cimitero de quei morti vissuti senza il papa e né li santi, ma come tutti, tra le logge e i torti. Pensò così a quei cristi seppelliti, guardando delle tombe i bianchi tetti, le gioie avute e tutti i guai patiti. E sopra il volto gli fiori in sorriso, pregando il Dio che a costo d'esta stretti c'entrassero anche loro un paradiso. La sciantosa. C'è chi lo chiama ancora sesso forte e chi ci chiama a noi gentil sesso. Ma a guardare la questione più d'appresso, le cose sono assai de più contorte. Io, per esempio, quando ero in vita, ho comandato l'omine a bacchetta. Bastava giusto fargli una faccetta e tacche, ero servita e riverita. E chi è più forte mo, pensavo io, te che sei in grado di guardarmi fisso senza fallocchi de uno stocca fisso o me che ottengo senza paga il fio? Ma poi finì sta vita che non sputo e il vero amore non l'ho conosciuto. A dichiarazione, ovvero il racconto della sciantosa. Ombretta mia, che vuoi morto de fame? Il cuore tuo, lo sai che è bella questa? Il tanfo da poraccio che t'appesta non lo vorrebbe manca a morte infame. Non c'ho li sordi, ma c'ho la poesia. Con quella te ce puoi pulirci il culo. Se il giorno sfacchinassi come un mulo, non ce veresti a sera a dimme, bella mia. Ma guarda che te amo per davvero. Perché non te ne vai a morire ammazzato che te sei buono solo al cimitero? Scortami, ombre, io me son innamorato. Si ma rifiuti, guarda che m'ammazzo. Ce godo assai, si te levi dal cazzo. L'uomo del barcone. Io abitavo giù al Ponte de Fero, proprio giù sotto, dentro de un barcone. E quel che mo me manca al cimitero è proprio quella strana sensazione che si provava quando via la sera, a veder sole scenne sopra il fiume finché non more, e via la notte nera, e te ne va a dormì, e smorzi il lume. La sera che tornavo sderenato, per sta mia vita fatta d'espedienti, per me era un paradiso e s'ascortato dal fiume mio, che quando vuole ascolta, e ricontaglia tutti l'accidenti. Sentite, ve racconto de una volta. A voce del fiume, ovvero il racconto dell'uomo del barcone. E il fiume, certi giorni un po' assolati, si ascolti bene se può dire che parla. A volte se lamenta, a volte ciarla, o piangiro li cristi scoglionati. Così provò a parlargli in disgraziato. A fiume mio, ammazzala si è strana sta vita che campamo senza grana, manco te svegli e un altro giorno è andato. Mo dice a me? È il monno che ce fotte, rispose il fiume. Pur io, se nu lo sai, fo scorre l'acqua e non me fermo mai. Ci avrei da di, da fare reclamazioni, da di che me so rotto li coglioni. Ma meglio anna magnà e buonanotte. A comare in finestra. L'edicola, lo sai, non è soltanto quel posto in dove compri i giornali, ma pure le cornici lungo i viali, dando a faccia l'immagine del santo. Ma pure io, per via collaterali, sono stata incorniciata alla finestra, dando cala per cesto, lesta lesta, pessa la spesa fin sui davanzali. Er giorno intero da quel finestrino chiacchieravo co estro e grande agio con le comari in strada o giù al giardino, quasi fossi una dama di lignaccio. Tanto che per scherzarci chi perfino diceva che ero parte del paesaggio. La barbona. Dormivo in strada al freddo in un cantuccio che puzzava de vomito e de piscia. Poi il freddo m'ha spedita liscia liscia all'antro monno e senza tanto cruccio. Perché vive così non è più vita. Magna nella monnezza quel che avanza e poi vede la gente che te scansa che puzzi de carogna imputridita. Poi, per sgombrarmi morta dalla via, c'è chi pensò a chiamare la polizia, ma dal comune, con delicatezza, gli fecero notare che questa grana aspetta d'ufficio alla nettezza urbana, che insomma, puro morta so monnezza. Il carcerato. Eh sì che ce lo so, me l'hanno detto. 20 anni mi hanno detto che ho sbagliato, ma io a passare la vita senza affetto non gliel'ho fatta più, me so ammazzato. 20 anni dentro al gabbio non li ressi. Troppi ancora ce n'erano da score. Così l'ho fatti tutti quanti fessi. Provate a incarcerà un po' chi se more. E poi sbaglio de che, perché ho rubato? E le porte che a me m'hanno inculato? Bella davvero sta giustizia nostra. C'è chi c'ha i sordi puro per notacce e chi ce l'ha nemmanco per campacce. Ma l'anima degli mortacci vostra. L'operaio de cantiere. Continuino a chiamare le morti bianche quando che sul lavoro ce se more. Ma quando a me me s'è fermato il core, tutto era rosso sopra le palanche. Fu giusto un lampo, un piede messo male, e so cascato dall'imparcatura. Nemmanco il tempo poi d'aver paura, che già ero spappolato sul pianale. Lavoro al nero, niente protezioni, solo così se fanno li milioni. Questa è la norma ormai, nell'edilizia. E ce lo sanno li palazzinari, ma se non ci vo sta, so cazzi amari. E per chi more poi non c'è giustizia. A gratta che cara. Hai mai raspato il ghiaccio te che ascolti? Più che mestiere è una filosofia. Tu gratti gratti, quello viene via, ma intanto i ghiacci già so quasi sciorti. Lotta col tempo, con sta frenesia, per quanto se te c'ha danni e c'ha riochi, li giorni sai, so sempre troppo pochi per provare a capisce che sia. La gratta checca, insomma, è un po' una lente, dopo hai guardato attraverso con fatica perché il colore buggerà la gente. E non c'è mica senso a sta fatica, te gratti gratti e poi non resta niente, ma in culo a noi c'entra, in testa mica. L'avventore del bare. In vita mia, quello che più amavo era la sera, quando so le 7. Andava a bere al bare, poi magnavo e poi ci si metteva a fan 3-7. Una comitiva vecchia quanto il cucco. Ci stavo da quando ero ragazzino e stavo là finché non ero ciucco e mi stancavo de sta far cretino. Per me fu questo il modo de sta galla, pena affonnata in tutto nesta vita, odiata, amata, troia, riverita, che non t'ascorta, te rapisce e balla, te fa girà finché t'ha incatenato a un posto de lavoro e ardio mercato. 3 cose nella vita, ovvero la filosofia dell'avventore. So 3 le cose, nesta strana vita, per cui ci tocca sempre da passacce. E non c'è niente che tu puoi da facce, ci tocchino finché non è finita. 1 è la fica, per cui vieni al monno e per cui poi fa un sacco di stronzate. 1 è la fiasca, che, nelle nottate, è la più amica ne sto giro tonno. 3 è la morte, arriva silenziosa. T'addorme e poi te spoglia d'ogni cosa. Ma tutte e 3, e forse qua star bello, so cose che te fanno annar cervello. Poi che sia fica, fossa o le fiascacce, comunque sia pe buci hai da passacce. Passeggiando per quartiere, il macellaro. Er 5 di dicembre fa 20 anni. La figlia del macellaro sotto casa. Io ho detto ieri l'altro, caro Nanni, la meglio carne ce l'hai dentro a casa. E tu non sai per quanto è bella questa figlia, non so a chi darla. Sarà. Cadesse. Sarà buono. Io so, ho capito, però non sa via nessuno. Vabbè. Ma sarà la tinta, dice i capelli, può essere una cosa. Può essere, può essere. Oppure che me l'hanno messa incinta. Capitolo 5. Dissertazione sul tempo. Il tempo al cimitero. Nesta mucchia de lapidi e fornetti, er tempo scorre e passa in modo strano. A volte va veloce, a volte piano. Vengono i mesi e manco te l'aspetti. Ma che gli frega a chi sta qua sdraiato, si er tempo fermo oppure si va avanti? Qua non c'è figa, sordi o governanti a rompe finché t'hanno sderenato. Qua il tempo è bello solo da guardasse, io dentro casa e i morti dalle casse. E mo ve voglio di delle stagioni, che a volte danno il sole e a volte i toni, che il tempo passa eppure non va avanti, che i giorni qua sono strani tutti quanti. L'inverno. D'inverno cala il ghiaccio sul serciato, e sopra ce se lassano le orme, quando cammini mezzo congelato e il monno attorno pare che s'addorme. Qua invece è sempre tutto appennicato, e il sonno qua è una delle norme. Ma a me più de una volta m'è sembrato che c'è più vita qua che il monno dorme. Ma quando scende soffice la neve, che tutto imbianca e tutto s'acconfonne, questa amarezza c'ha la vita breve, perché nel camposanto illuminato de lucine, de moccoli e madonne, la morte può sembrare un cielo stellato. Primavera. A primavera si rivede il sole, s'affaccia dalle nuvole assonnato, e lanciano sbadiglio, rintronato, sull'alberi, le tombe e sull'aiole. Ma non è tempo ancora dei bei giorni, la pioggia viene e scappa all'improvviso, te fracica per bene senza avviso, poi te fa credere che più non ritorni. Ma poi sto tira e molla non è male, perché alle volte in mezzo a un funerale la gente che s'acchitta e se in belletta la vedi core come una saetta, c'hanno lo sguardo mesto e ben contrito, per morto? No, è solo per vestito. L'estate. D'estate qua in deserto sterminato, in cui puro la morte c'è sta stento, e gli c'ero del culo pure al vento quei due volte che s'arza a dacce fiato. A un tratto pare tutto un po' più bianco, e il mar m'acceca, l'aria pare fuoco, solo de sera si respira un poco quando che il sole cala rosso e stanco. Ma poi arriva la notte, che gran cosa! De stelle brilla tutto il cimitero, pareno buci sopra un velo nero che copre una distesa luminosa. E a sta così, de fronte all'assoluto, ta ricordi che insieme che non sputo. L'autunno. L'autunno te ne accorgi che è d'attorno, perché la sera dura più del giorno, e all'alberi, che perdono le foglie, gli restano le braccia tutte spoglie. Ma qua ci stanno pure l'arberacci, che non se fanno mai spogliare i bracci, che per premura o per malinconia non spargono le foglie per la via. Sti alberi che svettano puntuti, so come il camposanto, che se tiene tutta la gente che qua dentro viene senza più la speranza d'andar via. Ci ricorda così, con sta malia, camo da fini all'alberi pizzuti. L'innamorato. Cortrano direttissimo è partito. Stamane quell'innamorato pazzo, sempre fumato a tutto, guannescito, fischiava e si sentiva un posto campione. Ma la ragazza presso a poco lui l'ha vista solo in foto, così incontrandosi alla stazione e notando di lei una certa opulenza, disse all'amata: oh, ma quella in foto te la sei magnata. Capitolo sesto. Er colombario. Er forno. Quel fumo che si vede là di sopra non vi è da un fuoco fatto per scallasse, ma è fatto con la carne e con le casse de chi la terra non vuole che lo copra. Da quando l'uomo è vivo e che s'addobra per dà la morte de che lamentasse, e fregar pasto a vermi e bestie basse è quello che sembrò la meglio opera. Poi con una spazzoletta piglio tutto per metterlo nel vaso cinerario, e poi lo schiaffo qua nel colombario, che è dove piazzi l'urna e piagni il lutto. Mar nome te fa crede tra ste tombe che i morti ormai so come le colombe. Er ciclista. Quando er campione andava senza antoppi a scalar la collina del sestriere, me piava un pepe al fondo del sedere, zompavo e poi strillavo: «Dai, coppi!» La bici fu la mia filosofia. Talleni, non inquini, fai baccano. E a pià de petter traffico romano, pensavo de fa Davide e Golia. Mangiorno, maghinone me s'attacca, meringhia, sgasa, supera e macciacca, che manco l'ho capito che è successo. E io lo dico sì, che senza falla, sta morte mia tu puoi considerarla tra i costi che se paghen al progresso. Er poeta. Da quando penna e carta ho avuto in mano, ho scritto rime e versi a profusione, pensando de svoltà una professione, de far poeta o almeno lo scrivano. Mi padre mi diceva, sei un fregnone. Che te credi, che Ramon è tutto bello? Che come strilli arriva il giocarello? Guarda che per campace vo' ambizione. Ma l'ambizione, si vai pile spicce, te porta in strada a coce le sarsicce, per poi imbottisce il pane per Benino. Che infatti per campà apri in chioschetto, ma sull'insegna appesa sopra il tetto c'ho scritto dar poeta del panino. Il senso da poesia, ovvero la poesia del poeta. Una volta, ali poeti d'ogni penna, era mestiere de cantar la gloria. Ma oggi, che è finita anche la storia e la ragion del secolo tentenna, pare non sia più cosa meritoria quella de scrive, sembra una scemenza, una battaglia persa de partenza, magro il bottino, triste la vittoria. Cioè se potrebbe fa' una litania de quanto l'arte oggi è in controsenso, de quanto un fonno è una civetteria, stronza la gloria, magro assai il compenso. Ma in fonno quel che resta la poesia è proprio il lusso de non aver senso. A cravattara. In vita era una nota cravattara, nel senso che prestavo sordi a strozzo. E ancora mo' me resta appeso al gozzo sta fama buio, al buio della bara. Vivevo proprio un fonno alla lungara, dentro una casa scura come un pozzo, a ricontà ogni giorno il montarozzo dei sordi della gente che è somara. Ma un giorno due figliacci de mignotta me son boccati che ero appennicata, se so fregati tutto, ah che botta. E allora con una corda disperata ci ho fatto una cravatta bella ciotta, l'ho pesa in trave e me ce son piccata. Er buon tempone. La vita non l'ho mai presa sul serio. Buttavo sullo scherzo tutto quanto, che ride senza remore e rimpianto e nella vita er solo refrigerio. Per tanti, ce lo so, non è criterio, ma io ridevo uguale assai decore, finché non me trovarono un tumore e ride mi divenne deleterio. Mia moglie me portò da un guaritore, de quelli che te sfileno d'incanto er male dai budelli e senza pianto. Ma me ne accorsi che era un truffatore. Gli sgamai il trucco e quando che lo vide ce fu il silenzio. Poi me pigliò a ride. Er Don Giovanni. Io so campato per le donne belle. Amore eterno per una notte intera me sbatacchiava il cuore anche la pelle, ma finiva nell'arco de una sera. E io l'ho amate un poco tutte quante, ma tutte quante l'ho amate per poco. A donna a lungo non è interessante. Questa è l'amara regola del gioco. Solo una volta mi partì la testa. Me innamorai di una ragazza onesta che era andata in sposa poco prima. Per sempre dentro me la so sentita nel corso de sta mia puttana vita, de cui mo ve racconto un pezzo di rima. A virtù, ovvero il racconto del Don Giovanni. Pregava Crementina il buon signore che Gigi non gli alzasse la sottoveste, che non toccasse non un batter sole né manco al mare ai giorni delle feste. Quando dar gioco se passò al concreto, piagneva Crementina addolorata, pregando la Madonna de Loreto de preservaglie la virtù inviolata. E dopo, giunto al fine della caccia, Gigetto, che faceva panna via, sa rintrovò incastrato tra le braccia de Crementina che pregava pia che non perdesse la virtù in quel letto, ma intanto suo teneva stretto stretto. Er supplente. Potemmo dire che ero professore, ma più giusto sarebbe di supplente. E col lavoro in giro ultimamente riuscivo a fare in un mese un par de ore. Più sta che andava sempre peggio. Da un pizza all'altro per fa' due supplenze. Poi tocca da mostrare le referenze e quel che me fregava era il punteggio. De qua, de là, e trotti come un mulo. Per lavorarte tocca che te sposti. Arrivo e semo in 20 per due posti. Tutta sta corsa per educarci in culo. E un giorno, che ero stanco de combatte, il core si stufò e smise de batte. e il pagliaccio. De lavorà, a me è sempre piaciuto, che per magnà, invece che al cantiere, facevo ride a gente de mestiere, al circo tra la grobba di Erforzudo. Con la faccia pittata e il naso rosso, facevo le boccacce ai ragazzini, scoppiavo i mortaretti e i palloncini e quelli giù, a ride più non posso. Ma poi c'è sta che arriva quella sera che dentro qualche cosa te se spezza, e allora ha voglia a metterci una pezza, salì sul parco è come andà in galera. La gente urla, scoppia una risata, ma fa l'effetto de una cortellata. A Madonnara. In mezzo a quell'immensa pipinara che dè San Pietro ai giorni della festa, mi capitò che mi girò la testa a vedi i santi sulla colonnara. Tanto mi impressionò quella fanfara che per svoltà sta vita disonesta, ma ritrovai a dipigne quella gesta sul marciapiede, a fa la Madonnara. Vennevo i santini per due spicci a quella gente tutta picci picci che storce il naso quando da risponne. Perché si stai per strada a bella vista, resti pezzente puro si sei artista, per te non ci so santi e né madonne. Er pugilatore. Io ero grande, grosso e incassatore, con du manone in tronco pettorace, per questo m'allenavo giù all'audace, volevo diventà pugilatore. Pensavo che abbastava essere tenace per realizzare sto sogno del bambino, ma si stai senza il becco de un quadrino, puro si c'è la tigna, non c'hai pace. Così me so venduto per du sordi, l'incontri mia una banda de balordi, e la carriera sai in dove l'ho finita? A fa il piantone, senza più un futuro. Le sveglie più ignoranti, sta sicuro, so quelle che te sa molla la vita. Er frocio. Non lo potevo dire da pischelletto che mi piaceva un altro ragazzino. Li froci li mannavano al confino, botte da orbi a quelli col vizietto. Ma poi, quando hanno appeso il mascellone a capangiù nel mezzo di Milano, ho pensato che il popolo italiano ci aveva avuto una trasformazione. Invece in cazzo, sei sempre una vergogna. Resti er diverso per definizione. Er popolo, civile e pecorone, non se priva mai del gusto della gogna. Me n'annai via, e a sto paese ingrato, solo da morto ci sono ritornato. Amalata. Ci ho avuto la salute scarcinata nel mio breve passaggio per la vita. La vita da malata l'ho passata, e sempre da malata l'ho finita. Ma fu un bel sogno, quasi una magia, vedè dalla finestra che passava quel ragazzetto bello per la via, che de sorpiatto a me me se guardava. Così, una sera fredda dell'inverno, l'ho visto e l'ho rigiunto di nascosto. E me lo so portato in un bel posto per chiedere dagli un poco de calore. Restammo in mezzo al prato a far l'amore, ma al freddo m'ha spedito al Padre Eterno. E ritardato. Son nato minorato de capoccia, da un padre con i ragni nella saccoccia, che gli toccò la samma in istituto puro si non l'avrebbe mai voluto. Là stavo sempre insieme a una bambina, insieme dalla sera alla mattina. Dormiva nella stessa stanza mia, c'aveva la mia stessa malattia. Ma quando grandi siamo diventati, tutto d'un botto ci hanno separati. Sapeste voi le pene che ho patito. E mo che sto interrato qua giù un fonno, er tempo mio ne sto cazzo de monno, qualcuno deve dimmi a che è servito. Er graffitaro. De vive tra le mura grigie spoglie dei palazzoni de periferia, cioè laddove stava casa mia, me piava quel magone che te coglie quando che vedi un morto per la via. Così ho pensato, per cambiare de umore, de dali muri un poco de colore, la notte in strada con l'amici mia. Ma una volta che annammo in ferrovia per disegnare su un muro brutto e storto, purtroppo ci sgamò la polizia e subito sparò quel malaccorto. E io non feci il tempo a scappa via che su quel muro ci rimasi morto. L'infermiera. Quando che si campava la bisogna e c'è stava miseria e fame nera, mi pio guizzo de fa l'infermiera per essere d'aiuto a chi ce n'ha bisogna. Dopo il sogno, però, restò la rogna de sfasser culo da mattina a sera, tra tanfa de piscio e de colera, perché la malattia è una gran fogna. Col tempo poi diventi indifferente, non te fa più pietà né simpatia il destino carogna della gente. Ma quando che arrivò la morte mia, me restò il dubbio, sordo e prepotente, d'essere vissuta sotto anestesia. a mignotta. Sapeste quanta gente mi è passata, tanto per casa quanto nel fraccoscio, da quello arzillo e tosto a quello moscio, e quanta gente mi si è ripassata. C'era chi c'ha la moglie compressata, quello che in testa c'ha solo lo scoscio, quell'altro triste triste e floscio floscio, che a buffo non si è mai fatto una scovata. Potrà sembrare pure un mestiere lercio sta professione vecchia quanto il monno, ma almeno mette in chiaro e nel profondo chi venne e compra, andove star commercio. Dicevo io per questo a bella posta, donna che impaghi, non sai quanto te costa. Erdotto ombriaco. Solo una ce n'ho di referenza, che ero ombriaco e che bevevo spesso, sì tanto che sono ombriaca ancora adesso, e mica per scordà, per indifferenza. Prima sognai di diventare dottore, ma se il vino te tiene sotto botta, te vengono le mani di ricotta. Così feci il poeta e lo scrittore. Divenni alcolizzato più de prima, me ne fregai del nome e della stima. Giocavo con la morte nei versi tutte le notte, fino a quando persi. Mo che sto qua una cosa l'ho capita, la morte è un modo di piglia la vita. A filosofia del dotto ombriaco, perché la vita è come il vino. Ah, per me la vita è come il vino, se nulla bevi presto pia d'aceto, e poi dipende come scende il greto, o per traverso, o il gusto è sopraffino. Bianco può essere le giornate fiacche, le passionali è il rosso inebriante, e quella allegra è il vino un po' frizzante, quella annacquato è per le mezze tacche. La cosa che mi piace è che te embriaga, du sorsi e non c'è niente che te sbraga, ma tutto al monno è questo che c'è inguaia, c'è il dritto e l'incontrario da medaglia. C'è fotte che sta vita è dolce e amara, du sorsi e sei finito nella bara. Mi nonno, quando beveva. Mi nonno si è magnato a mucca pazza, non si ricorda manco quando è nato, ma pensa ieri l'altro a una ragazza, gli ha detto pure che non è sposato. E allora nonna, prima chitto, gli ha rimesso in testa tutto. E un attimo è stato. E non ti ricordi? Ripensa meglio di chi soli sordi. Avanti. In vista delle celebrazioni natalizie, una dedica. Il ricordo di quelle pasquali. D'aprile Pasqua è festa comandata, dice il precetto della religione. Per l'ebraismo fu una sfacchinata, per l'Evangelo fu resurrezione. Ma Gesù Cristo non mi pare che ha suonato le fanfare quando è sortito. E no, non ha mangiato bacchi a scottadito. Capitolo settimo. Le ceneri. Accanto al forno c'è una piazza rasa che affaccia oltre la cinta, sopra all'orti. Qua sparghino le ceneri dei morti che invonna vena tomba come casa. Sta gente qua non fu mai persuasa che è la memoria che dà li conforti, e si anzi dai ricordo te ne sorti, la morte è quasi come averla evasa. Te pensa si son loro le ragioni, e tutto quel dannato lavorio per far le statue ai re, ai faraoni, e per scampar sto modo dall'oblio è come costruì tante prigioni. Sarebbe una gran beffa, caro mio. Capitolo ottavo. La mucchia, che è poi la fossa comune. Sotto a sto paradicello recintato ci hanno infilato un sacco di persone, de quelli senza sordi e occupazione, che in posto qua non se lo so pagato. Ormai è da un pezzo che non v'è più usato, mo vi è passata bara e camposanto, te coprono de terra e tutto quanto, e a sborzer comune o è lo Stato. Ma il marmo quello no, non te lo danno, troppo disturbo metteci in lastrone per quelli che nella vita quel che fanno essere sfruttati dall'altre persone. Una tomba senza data, un carcio e via, senza ner nome e nella compagnia. Primo anonimo. Mica per forza tocca da essere tristi, per noi altri che siamo tumulati e stiamo sottoterra abbraccicati. E questo è il fato de noi altri cristi. E io parlo per me, manco sto male. Se chiacchiera e se ride come armonno. Solo li vizi mancano qua in fondo, e come là il tempo è sempre uguale. Oddio, ci mancherebbe pure il vino per sta da papi ad aspettar matino, mentre la luna more dietro ai tetti. Che altro devo dire? Che siamo tanti e siamo poveracci tutti quanti, ma in fondo non si sta manco tanto stretti. Secondo anonimo. A me invece mi ci rode il culo che stiamo dentro a sta fossa comune, coperti da 3-4 zolle brune de terra mista la merda de mulo. Non siamo altro che pellaccia nuda, buttata tutta a caso dentro un buco, l'uno sull'altro tra merda de ciugo come quintali de carnaccia cruda. Stretti qua giù, si voi o si nulo voi, nessuno sa ricorda più de noi, nessuno ormai sa più er quando or come. Tutti ammassate, pebbare la terra, finiti qua per peste o per la guerra, sei porti qua senza nemmanco er nome. Terza anonima. Dentro a sto bucio ci hanno vomitati, come gli scarti de sto monno infame. Han putridì per diventare letame, merde da vivi e merda diventati. Siamo li figli del monno civile, che dà li poveracci tanti appigli, ma che bel padre, che fa vive i figli uno alla regge e l'altro nel fienile. Siamo gli scarti del mondo moderno, che dà da vive pure ai poracci, se ne piaguro tramite il governo, con 4 carci in culo e un po' de stracci. Prima che po' ce manna il sonno eterno, dentro la mucchia e senza tanti abbracci. Quarto anonimo. Dovete da sapere che a noi ragazzi nessuno ci ricorda più per niente, mentre la mummia, un morto incontinente, è un pezzo da museo, e mica cazzi. Noi invece siamo carne da macello. Ma meglio così, che sta de dietro a un vetro, coi mocciosi che fanno avanti e indietro per rimirare e per dire ma quanto è bello. Io mica mi lamento più de tanto. Sto meglio qua, lo dico per davvero, se porto proprio in mezzo al cimitero. E poi un nome sul marmo, dimmi quanto potrà durare e essere ricordato. Sto meglio qua, sti cazzi del passato. Quinta anonima. Io ero una ragazza assai piacente, ma come tanti senza li bagliocchi. Per piagne non ci avevo manco l'occhi, tanto a nessuno gli fregava niente. Mo dormo qua e manco me vergogno de sta tra l'altri con le zinne in fori. E voi, con la morale nei licori, che ve faceva schifo il mio bisogno, siete per caso morti più contenti d'aver sopra le tombe i monumenti? Eh sì che tra de noi c'è differenza, ma per le tombe, no per la decenza. Ci avete i vermi dentro e il marmo fuori, e invece su de noi crescono i fiori. La stessa ragazza incontrando il professore de lingue. Appresso a una ragazza assai piacente, da chi toglie proposi una balera. Ma lei stizzita disse, sa spiacente, non te capisco io so dell'Inghilterra. Ma dimmi un po', gli dissi bene, vedi te se te conviene, che quanto a lingue io ce n'ho una ma appare no 5. Capitolo 9. L'ossario. De dietro a sto portone sgangherato, che quando s'apre pare che se lagna, ci ammucchiano le ossa alla filagna in cassette de legno fracicato. Tutto te pare marcio e smagnucchiato, c'è sta umidità che te se magna, con buci grossi come una papagna, dando il muschio penzolo anzuppato. E ste cassette c'hanno un finestrino, dando li teschi guardano de fori, con l'orbite strizzate per benino, per vede meglio, mo che è illuminato, la luce che entra e porta li colori, che so come un profumo del passato. La voce dell'ossario. Non è che avevo ormai da di più niente. Non semo altro cosa smagnucchiate. Dentro a sta grotta tutte accadastate, per noi non c'è il ricordo della gente. Ormai siamo una cosa da far vede, ali pupi per mettergli paura, o chi c'è pia pen solida scurtura pa ricordà la morte a chi non crede. Ma quel che seme è tutta un'altra cosa. Quel vecchio, il bimbo, il santo, l'assassino, il prober, ladra, zoccola, la sposa, il figlio de una mignotta col cretino, il prede, la grandame, la cenciosa, so cosa sola e unico destino. Capitolo decimo. Il dialogo del corvaccio con la morte. Il corvaccio e la morte. Volevo da sapere, sorella morte, com'è che sei sollievo o dannazione? Che sei dolore per tante persone e per tant'altre quasi buona sorte. Voglio sapere com'è, per far la spiccia, che ce s'addanna e che ce s'arovella fino a rintorcinasse le budella per poi fini a imputridi la ciccia. Che ci annisconni mai de tanto bello o de talmente brutto e innominato che non s'arriva mai fino a sapello? Vorrei sapere, tra fede e disincanto, si provamo un timore immotivato o si avvertimo immotivato incanto. La morte al corvaccio. La morte se lo guarda e gli risponde, grattannose qua a farce la capoccia. Che cazzo ne so io che va bisboccia in dentro alle testacce vostre donne? Io so come me guardi, so assassina, so dolce, so bastarda, son sollievo, c'ho il vorto d'un vecchiaccio assai longevo, o dente schiaccio, o de una ragazzina. E il vero è che so tutto e non so niente, o che so come il monno, indifferente. E che c'è dopo poi? Che ne so io? Io faccio solo il lavoro mio. Io so solo il finale de partita, e spesso più imparziale della vita. La morte e la vita. La figa, il fumo, e gioie, i dolori, il vino, li baiocchi, li tormenti, l'ansia, le storture, li lamenti, ride, piagne, magnali, batticori, felicità inseguita, e questa è vita. Il vino, il fumo, l'ansia, i batticori, la figa, li baiocchi, li dolori, e ride, una stortura indigerita, piagne, magnà, buona e mala sorte, felicità agognata, e questa è morte. Ma in fondo, in fondo, al fil della partita, la cosa che sconvolge è l'evidenza che tra quel che dà morte e che dà vita, al fine non c'è alcuna differenza. Capitolo undicesimo. Conclusione. Andiamo, gente, il cimitero chiude. Io torno alle mie solite mansioni. Non posso sta a grattarmi i coglioni. C'ho da scavare per l'altre carni nude. Ma prima che imboccate il cancellone, ditemi un po', com'è sto cimitero? Ve pare al fine poi sto luogo austero che lugubre se magna le persone? In fondo qua siamo da finì tutti, che siamo bianchi, neri, belli o brutti, che siamo gran signori o poveracci, vestiti in seta oppure con gli stracci. Qua c'è una bucia che ce sa d'anghiotte, e poi smorzano il lume, e buonanotte. È il 2 novembre. Da quando esiste il mondo, il 2 novembre, se portano i fiori agli decessi. Eppure nonna mia c'hai da sempre, da quando nonno è ito agli cipressi. Ma quando arriva con quel mazzo, gli viene un poco di imbarazzo. Perché per portare i conforti fa quello che ha fatto sempre, in fondo, nella vita come nella morte. Fiori a cornici, spartisce un po' per nonno e un po' all'amici.